La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Venerdì scorso, uscito da qui, ho preso il tram numero 24, perché di Milano non sa dove va. Mi si siede accanto una signora tutta abbronzata, sapete, quelle con gli zatteroni, la cavigliera ossidata, il tatuaggio ormai scolorito, la pelle rovinata, insomma la tipica villeggiante appena tornata dalle vacanze. Telefono attaccato all'orecchio, stava parlando di qualcosa con un'amica. Sentivo i termini vacanza, ci organizziamo, partenza. Io pensavo, sapete, alle solite cose, i racconti noiosissimi che ci si fa tra amici al ritorno dalle vacanze, giusto per riempire il nulla delle conversazioni. Ma a un certo punto, la bomba. La signora dice, se ci organizziamo da ora, sarà un fantastico ponte dell'Immacolata. L'Immacolata che cade l'8 dicembre, quest'anno cadrà di giovedì, quindi si salta venerdì, si fa tutta una tirata fino a lunedì, ma a Milano è festa anche il 7, Sant'Ambrogio, che è di mercoledì, per cui si fanno 9 giorni di ponte, almeno questo nella testa della signora. È agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, 4 mesi. Mancano 4 mesi, vabbè. Ognuno è libero di fare quello che vuole, capiamoci, cioè, ma un minimo di decenza sarebbe necessaria. Scusate lo sfogo, ma tutte le belle parole che sentiamo in questi giorni da presidenti, cardinali, arcivescovi, papi, sulla necessità di un ritrovato rigore mi sembrano una presa in giro di fronte a questa signora che già si organizzava il ponte di dicembre. Sembra che sia io l'unico a dover stare qui e lavorare perché c'è la crisi. Gli altri, via, tutti a divertirsi. Allora mi sarei alzato e come San Giovanni clama in deserto avrei gridato. Sentite, ben venga la crisi, ma venga la disoccupazione, la pioggia di fuoco, il precariato, la miseria, l'indigenza e financo l'inedia, che sarebbe la morte per fame. Tanto chi porta la cavigliera ossidata si salverà sempre. E ora iniziamo. Vampiri, vampiri che cadono su di noi come pipistrelli, perché poi i vampiri alla fine sono dei pipistrelli. Perché vampiri? E anticipati da questo Sol Dracula di tantissimi anni fa, ero giovane io, figuratevi, cioè, c'era appena stato inventato il fonografo, penso. Perché oggi parliamo di quanto avete speso in vacanza, tanto è vero che la trasmissione di oggi si chiama In vacanza con Bela Lugosi, vampiro storico del cinema delle origini. 800 24 00 24, per raccontarmi quanto avete speso. Avete speso troppo? Avete anche ricevuto delle truffe? Sì, perché l'estate è il periodo in cui ricevete più truffe del solito. Vi fidate dei tour operator, andate lì tutti intimiditi, vi vedono i centri commerciali seduti davanti a questo operatore, appunto, del tour operator, come se foste dal medico, tutti intimiditi, adesso il medico mi darà 2 giorni di vita. Invece no, siete state lì semplicemente organizzando una vacanza alle Maldive, poi tornate e fate come quei, aspettate qua il foglio, ecco, già 9.800 segnalazioni raccolte dal 1 giugno al 24 agosto di turisti truffati per essere andati ai Caraibi, alle Maldive, e una volta lì non hanno trovato neanche l'albergo. Vabbè, tanto si dorme sotto le stelle, non c'è problema. Sapete perché succedono queste cose? Perché volete fare sempre le cose che fanno gli altri, non avete il coraggio di organizzarvi una vacanza per i fatti vostri. Andate su internet, organizzatela, pagatevela con la carta di credito, tanto essere fregati in un modo o nell'altro è lo stesso. Fate sempre le cose come le faceva Fantozzi, che quando andava al night, beh, vi ricordate cosa faceva? Fecero tutto quello che si può fare per farsi rapinare in un locale notturno. 2 cartoni di Don Perignon fatto col bicarbonato, cenetta di mezzanotte alla fiamma, tragiche foto a ricordo della serata. Calboni ne ordinò 40 copie, più 3 mostruosi animaloni di peluche regalati alle signore. E naturalmente cosa succede? Succede che alla fine arriva il conto di tutto ciò, e poi impallidite, perché il conto è questo qui. Il conto, signore? Ah, sì. Beh, metta tutto sul mio conto. Quale conto? Beh, mandi tutto a casa. Ma in quale casa, mi scusi? Facciano loro, poi dopo facciamo i conti. Intanto io parlo con le signore. Regolano loro? 649.000 lire! più il 18% di servizio. 4 anni di sanguinose economie. The goose is dead, the bats have left the bell tower, the victims have been bled, that velvet lines the black box. The goose is dead. Erano 25 anni veramente non sentivo questo pezzo dei Bauhaus, volevo farvi sentire tutto, dura soltanto 9 minuti, parla di Bela Lugosi, quello lì che vi ha ospitato durante queste vacanze in albergo, ma non solo in albergo, anche al bar, al ristorante, perché no, in piscina. 800 24 0024 per raccontarmi le vostre vacanze truffa, oppure siete disperati perché avete speso tutto, vabbè. Cercheremo una soluzione insieme. Intanto al telefono ho un ospite molto molto gradita, c'è Carmen Di Pietro, buongiorno Carmen. Buongiorno, come va? Ma qui benissimo, e tu invece? Io molto molto bene, a parte che io sono proprio di natura, sempre uno mi chiede come va, sempre bene. Ma fai bene. Sono proprio così io, sì sì. Fai benissimo. Senti Carmen, sei stata in vacanza? Sì, sono stata in Calabria, devo dire che sono stata anche molto molto bene con i bambini, io ho 2 bambini piccoli. Sì. E parlando proprio di vacanza, diciamo che è stata una vacanza... un po' spendacciona quest'anno perché costava, ho visto che costava un pochino tutto di più, la bibita, le cose essenziali, diciamo, magari un centesimo in più, però in più. Ecco, meglio, sai perché ti ho fatto chiamare? Sia per il piacere di risentirti, ma anche perché ho letto su internet che tu hai avuto una discussione riguardo il prezzo, il costo di una piscina. Sì, ecco, sì, ce è vero. Ce lo racconti perché è una cosa interessante. Ma no, io volevo entrare, diciamo, in piscina e ho visto che comunque non era accessibile. Perché? Perché era aumentato tutto. Ma di quanto era aumentata? Ma guarda, parliamo magari anche di 2-3 euro, però tu dici 2-3 euro, però facciamo 2-3 euro a persona e vai con 5-6 persone, tu capisci insomma che diventa una cifra. Certo, se vai una volta a settimana chi se ne frega, però il problema è che in estate con 2 bambini piccoli non è che puoi andare una volta sola, no? Beh, infatti, quindi sei andata più volte. Come? Dico, sei andata più volte e tutte le volte c'è questo... Se uno va tutti i giorni tu fai 2-3 euro a persona in più, quanto fai? Questo a me dispiaceva tantissimo. E quindi niente, abbiamo preso una casa in affitto dove c'era un albero che mi faceva da ombra, quindi non ho avuto l'esigenza di prendere l'ombrellone, esatto. Bravo, esatto. Ti dico che c'era quest'ombra, come girava l'ombra io mi spostavo, quindi non ho avuto proprio esigenza di ombrellone e quant'altro, diciamo. Poi magari ti dicevano, ma come lei Carmen Di Pietro e sta lì a guardare un euro in più, un euro in meno, perché loro pensano sempre che uno abbia un sacco di soldi. Infatti questa è una cosa molto strana, perché quando ti vedono, sì. Giuseppe, il mio compagno, mi dice sempre, tu non dire che sei Carmen Di Pietro, sai per quale motivo? Perché ti pensano una persona ricca, perché già lo spettacolo uno pensa, no, che gira... insomma che girino tanti soldi e roba varia, e vabbè, ma come fai a non dirla? Poi ti riconoscono e alla fine non ti chiedono se Carmen, come fai? Ti dici di no? No, dici di sì, dici però guardate che non è che in televisione si guadagni così tanto, poi soprattutto in questo periodo che hanno tagliato tutto. Ma in questo tutto. Periodo che non puoi comprare nemmeno un litro di latte, guarda, io non voglio essere la pessimista di turno, assolutamente, però ti dico che con 2 figli, e 2-3 persone, eccetera, un litro di latte non ti basta. E quindi devi spendere. E quindi devi comprare per forza 2 litri al giorno. Hai mai pensato? Al bar, sì, io non lo compro mai al bar, perché ti spiego, no? Questo fammelo dire è importante. Sì, dillo, dillo. Al bar costa, io te lo dico perché lo compro, è 1,70 euro. Sì. Al litro. Sì. E quindi non, a me questa cosa non va giù, assolutamente. Quindi niente, lo compro al supermercato dove bene o male lo trovi anche di 1 euro. Ma sei una perfetta massaia, dovresti fare tu quel programma fatto dal tuo omonimo, quell'altro, mi sembra si chiama, sì, Alessandro Di Pietro, Di Pietro. Tu ne sai di più, quanto pare ne sai guarda, di più. Guarda, se mi dovesse chiamare io sono qui, presente. Senti, hai mai pensato di comprare una mucca a questo punto direttamente a casa? Perché risparmieresti sul latte. Una mucca, io ho fatto la contadina da piccola, dall'età di... praticamente io sono nata a Potenza, quindi in mezzo alle colline... i miei nonni, io andavo, mi svegliavo alle 5 della mattina fino all'età di 15 anni, studiavo a Salerno, però nel periodo estivo ho sempre vissuto nelle colline, in mezzo ai campi, dove mia nonna insomma aveva di tutto, aveva le pecore, aveva le mucche, aveva le galline. Io mi ricordo che comunque balzavo sempre alle 5 della mattina per andare a mungere il latte con i miei nonni. E quindi non avresti problemi appunto nel mungere una mucca. Senti Carmen, per chiudere. Io lo so fare benissimo. Senti Carmen, per chiudere, dai un consiglio agli italiani, visto che tutti dicono che dobbiamo spendere di meno, lo vogliamo sentire anche da Carmen Di Pietro. Ma certamente bisogna spendere di meno, bisogna essere intelligenti. Laddove io ho detto il fatto del latte, non l'ho comprato al bar ma andate al supermercato. Costa tutto di più, bisogna stare molto molto attenti e così si riesce ad arrivare a fine mese. Ecco, abbiamo avuto sì. Anche questa perla di saggezza. Carmen, grazie tante. Sì, ma figurati. Buona ciao. Continuazione, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao. Quasi lugubre, senza luna stelle lucciole, prego che tu non ti accorga mai dei miei fari dietro che ti seguono. Il grande incubo, mi stai scorrazzando fuori città. Il grande incubo, chissà questa dove mi porterà. Il grande incubo, ma ormai finito, tu dove sei? Poi di colpo nelle ossa un brivido. Il grande incubo, una vecchia casa e la tua macchina che ferma sotto quell'insegna. Ma quale Green Motel? Benvenuti al Bates Motel. Ve lo ricordate quel filmetto di qualche anno fa di Hitchcock in cui c'era questa signora che va rubato $40,000, si ferma in questo motel, tranquilla, dice vabbè, mi farò una doccia. E sotto la doccia poi succede questo. Vi starete chiedendo, ma cosa sta succedendo? La stanno pugnalando? No, vi hanno semplicemente dato il conto dell'albergo a fine vacanza. È quello che fate voi quando dovete partire. Ah! Urla Beluine davanti alla reception. C'è però chi viaggia spendendo poco. Per esempio c'è Gianfranco da Milano. Pronto Gianfranco? Pronto Tommaso, ciao. Ciao. Hai urlato anche tu? No. No, per fortuna. No, caro mio. Allora, sai com'è? Dimmi, tu quanto hai speso? Soldi non ce ne sono tanti, no? Lo ha detto anche Carmen Di Pietro, se lo dice eccola. Lei. E allora occorre essere un po' scrocchi, voglio dire. Io ho preso su un paio di amici, sì? La macchina di uno di noi, e abbiamo fatto un lavoro da certosino su internet. Ci siamo trovati gli alberghi belli, comodi, tranquilli, con tutte le recensioni positive, e praticamente abbiamo speso 50 in media... Sì, 50 euro a camera, e nota bene, eravamo in tre. Quindi tre camere? No. Ah, una camera, camera unica, 50 sì. euro, e dormivamo in tre. Sì, quindi, sì, era la camera gangbang, ho capito. Sì, per in cui... pratica. Sì. Però sai, pro capite diventa davvero poco. Certo, e quanto tempo siete stati via? Noi ci siamo stati 2 settimane, ci siamo fatti Francia, Germania e Paesi Bassi. Una meraviglia, abbiamo speso pro capite dai 500 ai 600 euro, non di più. Ecco, perché bisogna fare così, arrangiarsi da soli, cioè organizzarsi la propria vacanza. Anche perché, voglio dirti una roba, dimmi. Se tu vai, sai che ci sono i siti specializzati che ti danno gli alberghi, eccetera, in qualche maniera ti proteggono anche dalle fregature, perché se trovi qualcosa che non va, fai la recensione negativa, insomma... ti proteggono, eh? Sì, io sai, delle recensioni negative non mi fido. Una volta stavo cercando un albergo a Londra e la recensione negativa messa da una tipa era: non hai il bidet. Ora, tutti sanno benissimo che in Inghilterra non è mai esistito questo strumento, per cui, sai, fidarsi a volte di persone non molto preparate che hanno l'accesso ai commenti può essere anche deviante, non trovi? Ma siamo sempre lì. Se tu trovi una recensione negativa su 200, sono d'accordo con te. Però se tu cominci già a vedere l'albergo, che di recensioni negative magari su una cinquantina ne ha una trentina, dici, aspetta un attimo, ne prendo un altro. Guarda, c'è gente in giro con tanta saggezza, vedo che Carmen Di Pietro non è l'unica, anche tu Gianfranco. Scusa, è così, no? No, hai ragione. Beh, senti, grazie, auguri per le vacanze dell'anno prossimo a questo punto, spenderai ancora meno. Ah, l'anno prossimo Stati Uniti. Ah, tornado, allora, evitando il tornado, mi raccomando, stai attento. Ok. Ciao, ciao. Ciao, buona giornata. Anche a te. D'altronde l'anno prossimo. all'hotel Supramonte e guardi il cielo. Tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi, o sei... Chiedo scusa, devo interrompere De André, perché De André non si interrompe, è uno di quei maestri che non si interrompono, però devo farlo perché non possiamo ascoltarla tutta, insomma, sono insomma, le 4 del pomeriggio e viene facile addormentarsi. Comunque, stavo cercando di dire prima che cantasse Hotel Supramonte che non esiste l'Hotel Supramonte, era un modo ironico che De André aveva per ricordare il luogo in cui era stato fatto, era stato tenuto ai tempi del rapimento. Stavo cercando di dire a Gianfranco che l'anno prossimo può andare benissimo in America, spendere tutto, tanto poi a dicembre ci sarà la fine del mondo, cosa tiene a fare i soldi, cosa si risparmia a fare, finirà tutto senza problemi. C'è un popolo che viene spessissimo a trovarci dall'Estremo Oriente, viene qui in Italia, c'è addirittura che ha lanciato la giornata contro i giapponesi e girano con l'ombrellino nelle città, sapete, pieno di queste comitive di giapponesi che per trovarsi usano l'ombrellino. Sono appunto i giapponesi, e quando i giapponesi arrivano qui da noi succede sempre qualcosa. Poi, prima o poi, il GR o il TG o i giornali danno la notizia della truffa fatta ai nipponici. Secondo l'articolo pubblicato dalla Asahi Shimbun, i turisti giapponesi sono in calo per le vie della capitale, causa ai frequenti disservizi e le ripetute truffe subite. Il fenomeno di aumentare i prezzi a turisti stranieri, in particolar modo se di provenienza nipponica, è purtroppo più diffuso di quanto emerga dai dati ufficiali. Ecco, tutte le volte arriva il giapponese che va a prendersi il gelato, che so, in Piazza della Signoria, lo paga 400 euro e scoppia la polemica, scoppia il caos. Oppure ci sono i russi sono quelli che invece non prendono il gelato e vanno al night e prendono una birra e la pagano 600 euro. Bellissimo il caso di questi ultimi giorni, avvenuto al Billionaire di Briatore, dove alcuni giovani ucraini molto ricchi hanno bevuto champagne a gogo a 900 euro la bottiglia, non so neanche quanto costasse, costa 26 euro al supermercato, non so se è lo stesso poi o meno. Dopodiché sono usciti dicendo venite domani sulla barca, saldiamo tutto, la barca poi è partita. Peccato, peccato che poi li abbiamo presi, perché sennò sarebbe stato divertente vedere il povero Briatore con il conto non pagato. È arrivato un messaggio intanto di Luca che dice: da 11 anni non si fa che partire in moto l'avventura, si sceglie solo la meta generale, quest'anno luglio in Marocco, tutto sommato in 30 giorni hanno speso 1500 euro a testa. Io non so se tanto o poco, boh, devo fare i conti, li faccio adesso. Nel frattempo vi faccio sentire una piccola canzoncina che parla proprio di conti e di costi estivi. Sì, vabbè, ci si diverte, tutto costa da impazzire. Pensa ieri tre gelati, cada uno 1000 lire. Ho venduto l'ombrellone, il canotto le sciupà. Porta dietro qualche lira, 200-300 mila forse basterà. Hey! Non si sa mai, quello che al mondo ci può capitare. Non si sa mai, quello che è stato non può più tornare. Non si sa mai, tra quanto sbaglio il giorno tu fai far. Ma se si tratta dopo di pagare, io mi sento male, sai, non si sa mai. Hey! Non si sa mai, non si a me sa mi mai, piace molto quello che al mondo ci può capitare. Non si a sa mai, mi piace non col si mio sa papà. Mai, mi piace molto il mare, tutto davanti di dietro. Mai, e tutta la sabbia nelle scarpe. Sbaglia il giorno tu vai far. Non si ma si tratta dopo di pagare, io mi sento male, sai, non si sa mai. Hey! Quando ero piccolo e sentivo questa canzone ero allibito, come tre gelati cada uno 1000 lire, ero angosciato, il gelato costava 200 lire forse ai tempi. Bene, oggi 1000 lire sono 52 centesimi scarsi, ditemi dove si vende un gelato a 52 centesimi che vado subito a comprarlo, perché non sembra vero. Però a quanto pare era una canzone del 68-69, quindi già ai tempi il caro prezzi delle vacanze era un tema molto sentito. 800 24 00 24, chiamatemi, fatemi sapere se avete fatto vacanze vacanze, non dico l'insegna del risparmio, ma vacanze in cui avete cercato di evitare le trappole per turisti, gli alberghi che non erano molto chiari, certi luoghi, come si chiamano? Io non vado mai, ai lidi, i lidi si chiamano, i lidi, è vero, mi sembra che si chiamino così, dove una sdraio costa come praticamente una poltronissima alla sera della Scala, alla prima di Sant'Ambrogio. Guarda un po', torniamo ancora a Praia di Sant'Ambrogio. 800 24 00 24. Mi spiace ancora, e sono veramente dispiaciuto prima per aver interrotto De André, vorrei farvelo risentire, purtroppo non posso farvelo risentire. Adesso c'è una telefonata fra poco in linea che mi diranno qualcosa, 800 24 00 24, per raccontarmi anche delle truffe. Più tardi, nella seconda parte, avremo ospite un avvocato che ci parlerà appunto di quello che dovete fare mentre ci sono, quando siete stati vittima di una truffa legata alle vacanze. Pronto, intanto eccola qui, pronto. Sì, pronto. Oh, ci sei, ti abbiamo perso, ti ritroviamo, ti riperdiamo, ci sei? È scomparso. Linea. Pronto, ci sei? Queste telefonate, non la ripetiamo più. Vabbè, niente, allora facciamo qualcos'altro. Vi faccio sentire qualcosa di che non c'entra niente con le truffe, però Dionne Warwick. Vi faccio sentire Dionne Warwick. Perché? Ve lo spiego dopo. Ascoltatela prima. Raindrops keep falling on my head, and just like the guy who's been a two. È tornata? È tornata, pronto? Sì, pronto Tommaso, mi sentite? Adesso sì, mi hai fatto lanciare Dionne Warwick che era preparata per dopo, dopo la faccio riascoltare. Allora, chi sei, scusa? Io sono Laura, chiamo da Milano. Laura da Milano, truffata? Sì, credo proprio di sì. Ho pagato un gelato quest'estate in una città italiana addirittura 20 euro. Un gelato da quanto? Da due palline, tre palline? Da due palline. Ma hai preso il famoso gusto puffo? Di solito costa sempre di più il puffo perché non si trova più ormai, è difficile. No, sono stata abbastanza semplice, limone e fragola, un classico. Ma seduta? Sì. Ci dici che città, per favore? Sono stata a Venezia. Ah beh, allora te lo vuoi tu, scusa, se vai a Venezia non puoi pagare meno di 24 euro un gelato, ma hai protestato oppure no? Ma lì per lì sono rimasta talmente scioccata che non ho avuto parole. Certo, dopo con mio marito ci abbiamo pensato, abbiamo detto, certo, non siamo stati furbissimi. Ah, quindi i gelati erano due? Esatto. Quindi cosa? 20 euro a testa, insomma. Cioè, potevate farci la spesa per una settimana? Esatto. Ma... dimmi, dimmi. No, diciamo che non capiterà più, ovviamente, insomma, dagli errori si impara. Sì, hai preso nota del locale, vuoi dirci anche l'indirizzo così lo evitiamo anche noi? No, preferisco di no, meglio di no. Ma almeno dici era vicino a San Marco? Sì. Vabbè, allora, cioè, e quindi anche un gelato benedetto alla fine, perché comunque... Quando, quando lo prendi... Senti, che parla liberamente, che maledizione hai mandato al gestore del locale? Insomma, come ti dicevo, lì per lì è stato uno shock, perché comunque noi siamo andati lì in gita, la classica gita fuori porta, abbiamo pensato, ma sì, per una volta regaliamoci questo gelato in centro, e dopo, insomma, ci siamo trovati un po' pentiti, però, insomma, la prossima volta non capiterà. Senti, ma in albergo avete speso lo stesso tanto oppure no? No, in albergo sono riuscita, come diceva il tuo ascoltatore precedente, con i siti, con gli alberghi, eccetera, me la son cavata e purtroppo sono stata punita per un semplice gelato. Ma poi la digestione del gelato è andata bene? Insomma, è andata un po' di traverso. Ah, per me, dai, dimmi la verità, hai litigato con tuo marito? Certo, perché ovviamente la colpa di chi è stata? Sua. Esatto, però poi è ricaduta sulle mie spalle e anche sul mio portafoglio. Ah, perché l'hai dovuto offrire tu? E certo, la punizione. Senti, doppia punizione. Dopo avrò al telefono un avvocato, se ti serve dopo chiedo se è un divorzista, perché può sempre essere comodo. Va bene, grazie. Va bene, ciao Laura. Buon'estate. Ciao, buona estate. Sta finendo, questa è l'ultima settimana, almeno della bella estate. E poi vedremo cosa ci sarà, se ci sarà ancora l'estate o se comincerà a piovere. Però quello che c'è adesso lo sappiamo, c'è la borsa. La bella estate. Faccio in fretta un altro inventario, smonto la baracca e via, cambio zona itinerario, il mio indirizzo è la follia. C'è un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei, io vendo desideri. serie speranze in confezione spray. Seguimi, io sono la notte, il mistero, l'ambiguità. Io creo gli incontri, io sono la sorte, quell'attimo di vanità. Incredibile se vuoi, seguimi e non ti pentirai. Sono io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai. Mi vendo la grinta che non hai. E alla fine potrebbe anche essere una soluzione, così, la vendita di se stessi per pagare l'albergo, per pagarsi le vacanze. Certo, bisogna trovare l'amatore, soprattutto in alcuni casi. Maria da Como, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno Maria, cosa ti è successo? Sentiamo, io ormai sono il vostro confessore, raccolgo tutti i vostri problemi. No, mi è successa una cosa bella, nel senso che stavo cercando un posto per andare al mare e casualmente, parlando con un conoscente, ci ha suggerito l'isola di Lampedusa e devo dire che ho passato una piacevolissima settimana a luglio, sì, un'isola veramente bellissima con ovviamente un'offerta interessante, nel senso che volo Milano-Malpensa diretto Lampedusa più affitto di un appartamento per una settimana, 380 euro. Ma scusa, era svendutissimo, come mai? Come mai? Ce lo chiediamo mai? Tutti, ma è una domanda retorica, come mai? Purtroppo quest'anno Lampedusa è stata, diciamo, scelta da molti turisti, diciamo così. Esatto, no? Ecco, sì. Non è stata scelta da molti turisti proprio perché purtroppo i telegiornali hanno dato notizie abbastanza terroristiche, diciamo, per quanto riguarda gli sbarchi, e in effetti ho dovuto constatare che purtroppo questa gente che si è fatta in quattro veramente per accogliere gli immigrati provenienti dalla Tunisia eccetera ha dovuto subire un calo dell'80% del turismo, tenendo presente che comunque Lampedusa vive 3-4 mesi estivi proprio sul turismo, ha dovuto subire proprio un calo drastico per le notizie diffuse, esatto. Lavorativa, infatti. Maria, però c'erano poi, era veramente come descrivevano i notiziari l'isola? Assolutamente no, non c'era nessuno? No, non, veramente sono bravissimi, nel senso che vanno a recuperare i barconi al largo dell'isola, li portano in porto, poi con dei pullman li portano a un centro d'accoglienza che è fuori dal paese e da lì direttamente in giornata vengono trasferiti nei centri d'accoglienza della Sicilia. I tunisini vengono rispediti direttamente con aerei militari in Tunisia, cioè le persone, voglio dire, che non hanno diritto di soggiorno, certo, eccetera. E tra l'altro, parlando appunto con gli isolani, dicevano che quando c'è stata veramente l'emergenza a marzo, l'invasione di 5-6 mila persone, loro hanno aperto le loro case a questi poveri disgraziati, dandogli l'opportunità di fare delle docce, gli davano i vestiti da mangiare, eccetera. E quindi vai a fidarti dei notiziari, perché noi vedevamo una cosa e invece poi... Anche perché mentre ero giù facevano vedere al telegiornale le immagini degli sbarchi, dicevano stanotte sono sbarcati 300-400 immigrati, e le immagini erano di repertorio dell'inverno. Questa è tipica, guarda, ti racconto un aneddoto velocissimo. Ai tempi della prima guerra del Golfo, sì, quando era appena cominciata l'avventura giornalistica di Mediaset, e al TG4 non avevano assolutamente i mezzi per poter andare a riprendere tutto quello che avveniva in quelle zone di guerra. E allora sai cosa faceva Emilio Fede? Mandava l'ispezione di Top Gun, il film, dove si vedevano soltanto gli aerei, e li spacciava per delle riprese fatte durante la guerra. Quindi mai fidarsi di quello che vedi nei notiziari. Grazie Maria, ciao. Lampedusa, sì, è bellissima, è sicurissima, anzi è piena di forze dell'ordine, quindi... Ecco, quindi se lanci questo appello il prossimo anno te li scordi 380 euro volo e appartamento, comincia a risparmiare. Ciao, bene, ciao. Ciao, buona giornata, grazie. Anche a te. C'è Paola da Milano, pronto? Sì, ciao, sono Paola. Ciao Paola, dimmi, cos'hai? No, noi invece invece andiamo un po' con la corrente, nel senso che ci siamo trovati benissimo ovunque siamo andati. Ma allora, se vi trovate bene, sono felice per voi, ma non, hai speso tanto? Come? No, abbiamo speso sui 2.200 euro, ma in quattro, quindi comunque siamo stati a quasi 3 settimane, ingressi in musei, all'agriturismo, la casa in Puglia, quindi sì, ma divino, praticamente una vacanza da non scordare. Cioè, insomma, integravate con l'elemosina, come facevate, scusa? No, abbiamo trovato sia l'agriturismo sia la casa in Puglia tramite internet, sui siti chiaramente affidabili, e devo dire che anche, cioè, proprio tutto bene, la casa in Puglia condivisa con altri 4 amici fantastici, comunque una cosa meravigliosa, la casa sembrava una casa, e ti posso assicurare, non dico hollywoodiana, comunque con la piscina mega, casa da 10 posti, solo per noi, le persone che si affittavano alla casa abitavano sotto, e noi praticamente tutta una casa con 4 camere, camera aveva un bagno. So già che arriveranno dopo dei messaggi di gente che vuole gli indirizzi, e poi vi arrangiate, vi metto in contatto tra di voi e dico arrangiatevi per il prossimo anno, perché io non posso fare da ponte. Comunque ti sei trovata bene, va bene Paola. Benissimo. Volevo solo proprio dirvi questo, che a volte ci siamo stati fregati un po' di anni fa, devo essere sincera. Ah, la casa, ecco, Toscana all'Elba, che però abbiamo fatto anche il nostro passo, ci hanno rimborsato praticamente il 75% della vacanza, quindi sarà arrivata con l'ascia naturalmente, però è stato un po', lì abbiamo sudato parecchio, vabbè, dai, comunque questa cosa dimenticate, però ultimamente devo dire che davvero non siamo incappati in niente, grazie. Vabbè, dai, grazie, l'importante è che ti sia andata bene quest'anno, grazie. Vabbè, Paola, e saluti a tutti, saluti i miei amici che sono dietro in macchina, che stanno tornando dalle vacanze, ecco, non perdetevi, mi raccomando, grazie, ciao. Allora, andate in vacanza? Bene, il vostro idolo resta sempre lui, Paolo Villaggio. Io nutrivo una completa fiducia nell'organizzazione dei villaggi vacanza. In che errore ero caduto? Ma si può sapere che succede? Ma sono 9 ore di ritardo, state calmi, calmi! Avevamo astutissimamente optato per un volo charter, che a metà prezzo offriva quasi lo stesso trattamento di un volo di linea. L'aereo era un terrificante Savoia Marchetti 1915 in tela cerata, precipitato 12 volte negli ultimi 2 conflitti mondiali. Raindrops keep falling on my head, and just like the guy who's been a too big for his bed, nothing seems. E rieccola di un Warwick nel suo punto giusto di scaletta. Perché? Perché c'è una cosa contro cui non potrete mai avere rivalse, ovvero il cattivo tempo. Se piove non potete certo prendervela con l'albergatore se si mette a piovere e la vacanza è rovinata. Non è stato il caso di quest'anno, perché non ha piovuto per niente. Anzi, io desidero temporali, piogge, uragani, tornadi, Irene. Pronto, avvocato Mazzotta? Salve Tommaso. Salve, bentornato. Grazie. Allora, diciamolo subito, non si può fare niente contro gli albergatori se piove. Purtroppo no. Però in tutti gli altri casi sì, se la camera non è quella che era stata illustrata nei Depliant, se il trattamento non è lo stesso e se le stelle da 4 diventano 1, cosa possiamo fare? Ecco, diciamo, questo purtroppo, diciamo, dobbiamo registrare in base alle numerose richieste di assistenza che sono pervenute anche quest'estate, che purtroppo, diciamo, i disagi sono stati molti durante il periodo estivo e spiccano, diciamo, come numero, in proporzione, diciamo, proprio coloro che lamentano un trattamento deludente rispetto alle aspettative maturate in base alle promesse fatte dai tour operator, dalle strutture alberghiere, sui siti internet, sui cataloghi. Quindi che si può fare? Una regola comunque, diciamo, prima di tutte, contestare sia in loco che immediatamente al rientro dalle vacanze tutti i disservizi subiti, perché insomma la normativa detta a tutela del viaggiatore, a tutela del passeggero, è una normativa molto, molto forte, che comunque consente di ottenere comunque un giusto ristoro per i disagi subiti. Soltanto proprio nel caso di pacchetti viaggio, dell'acquisto comunque, diciamo, del volo più soggiorno presso una struttura alberghiera, vige un termine di carenza di 10 giorni dal rientro nel luogo di partenza. Quindi la prima cosa è essere immediati nella contestazione di tutti i servizi subiti. Ma come facciamo, come si può dimostrare che c'è stata un'effettiva discrepanza tra quanto promesso e quanto trovato? Perché poi l'altra parte, la controparte, potrebbe dire non è vero. Bisogna fornirsi... Naturalmente, negano comunque, diciamo, certo, nella stragrande maggioranza dei casi tutti gli servizi che uno eccepisce, il viaggiatore eccepisce. Quindi è importante anche documentare bene tutti gli servizi subiti. Se ad esempio ci sta una piscina di colore verde anziché color cristallino, fare belle foto, documentare tutti gli servizi e tutte le difformità incontrate. Questo, diciamo, per quanto riguarda lo stato dei luoghi della struttura alberghiera. Quanto invece alle disagi, che purtroppo anche quest'anno sono stati numerosissimi, dei disagi aerei, ritardi, cancellazioni, overbooking e negati imbarco, anche in questo caso, diciamo, occorre mantenere tutta la documentazione relativa al volo, quindi i ticket di imbarco dei voli aerei presi. Ritornando ai voli charter, proprio, diciamo, allo sketch del film di Paolo Villaggi, Fantozzi, i voli charter, questa è stata proprio la condanna di questa estate, perché complice la grave crisi che sta toccando il settore turistico in Italia, proprio sui voli charter si sono registrate di grossi disservizi, oltre alle solite cancellazioni, ritardi negati in bar. Che cosa hanno fatto i tour operator? Per fare in modo che comunque più gente possibile venisse aggregata su un unico volo, che hanno fatto al momento della acquisto dei pacchetti viaggio, hanno promesso che comunque la partenza sarebbe stata il giorno X e il rientro il giorno Y. E quindi, diciamo, il viaggiatore era convinto di partire in data tot e rientrare nell'altra data. Invece no. Pochi giorni dalla partenza, sì, ricevevano una correzione. Dicevano il tour operator, le compagnie dicevano: scusateci per il disturbo, ma non partirete più oggi, ma partirete bensì dopo domani, partirete con 20 ore di ritardo. E questo, diciamo, per soddisfare comunque un interesse economico prevalente dello stesso tour operator, e per di più, diciamo, i passeggeri si sono trovati invece comunque a dover riprogrammare la propria partenza e il proprio rientro. Chi ce l'ha fatto? Oppure a rinunciare alla vacanza, chi invece magari aveva dei giorni fissati, si era presa al lavoro dei giorni fissati, non poteva comunque riprogrammare le proprie vacanze. C'è un grave inadempimento da parte del tour operator che può essere suscettibile di condanna e quindi, diciamo, di risarcimento, diciamo, tanto in caso di, comunque, nel caso in cui la vacanza sia stata fruita, tanto nel caso in cui la vacanza sia stata comunque rovinata per questa riprogrammazione dei voli. Avvocato, c'è comunque il sito, ricordiamo l'indirizzo del sito su cui si possono trovare le informazioni, che è www.vacanzarovinata.it. Ecco, vacanza di assistenza completa dei passeggeri, non, sì, ha nessun costo, perché noi valutiamo le questioni che ci vengono sottoposte. Nel momento in cui valutiamo la fondatezza e quindi riteniamo che sia altamente probabile il raggiungimento dell'obiettivo, diciamo, sarà la stessa controparte a corrispondere a noi i compensi per l'attività legale prestata. In questo modo il passeggero, il viaggiatore, viene soddisfatto e noi comunque, diciamo, abbiamo prestato un ottimo servizio, senza fare, naturalmente, percependo comunque il giusto compenso per l'attività da noi prestata, che non viene, ripetiamo, posto a carico di chi si rivolge a voi. Ok, grazie allora all'avvocato Mazzotta per tutte queste informazioni. Ciao. Grazie e a presto. Buonasera. Non vi sarete addormentati ancora con questo pezzo del pianoforte, ma non l'avete riconosciuto, è la colonna sonora di Twilight, quel film in cui c'è il poster con la ragazza che porge una mela nelle mani che dice: questa vi è rimasta e questa vi mangiate fino almeno al prossimo stipendio, avete speso tutto in ferie. Abbiamo speso invece tutto il tempo a disposizione, è finita anche oggi. Torniamo domani, però il tema domani è quasi politico: destra, sinistra, avanti, avanti, avanti. Lo scopriremo domani di che si tratta. Grazie a Pietro Lacorte in regia, grazie a Laura Vanossi in redazione e mi raccomando, domani per l'ultimo martedì insieme.